del dormiveglia dell'ora settima, fra la nona e decima dimensione, più vivo che mai al ciglio della luce, con un piede in terra, con il cuore in pace, rivedo in un fotogramma tutta la mia vita, spensierata, a volte sporca, a volte pulita, mi vedo dall'alto prendere il volo, ma sempre a contatto con il mondo intero. Siamo ben altro di quello che ci fanno credere, siamo la pelle, le ossa dell'amore, Venere, in noi vibra tutto, il firmamento, l'universo, il cosmo e anche un po' di vento. Se solo sapessi quanto di più ti potrei dare, se solo sapessi mangiare la luce e i resti, tu saresti un passo da leccarsi i baffi, immenso, nell'immenso, sei molto di più di quello che penso, anche un dettaglio di ogni tuo sguardo mi fa ballare, mi dà scompiglio, siamo nel tutto, parte del tutto, siamo assoluti, di pancia, di petto, tutto è qui detto in queste parole, tutto è già scritto nel tuo grande cuore. Avremo le strade spianate come i campi, per far crescere i nostri fiori, innaffiare funghi. Giorni freschi come primavere, saranno gli alberi a regalarci aurore. Respireremo, e anche Romolo, tutto il tempo, gomito a gomito, che grande è tutta la tua dimensione. Mi canterai la tua canzone. Oltre le sconfinate frontiere, saremo qui a farci rinfrescare. Oltre le superflue barriere, saremo qui a sentirci cantare. Immenso, nell'immenso, sei molto di più di quello che penso. Anche un dettaglio di ogni tuo sguardo mi fa ballare, mi dà scompiglio. Siamo nel tutto, parte del tutto. Siamo assoluti, di pancia, di petto, tutto è qui detto, in queste parole, tutto è già scritto nel tuo grande cuore. Abbiamo dentro il frullatore del frutto, in noi il nulla, ma anche un pesce fritto. Abbiamo il male, il bene, un cervello, le ali grandi e le torri di un castello, nuvole cosmiche dentro le vene, il tuo corpo la mappa del cielo che viene, una stella filante che brilla, settimo cielo, tu sei la mia stella. Rivedo in un fotogramma tutta la mia vita, spensierata, a volte sporca, a volte pulita. Mi vedo dall'alto prendere il volo, ma sempre a contatto con il mondo intero. Eravamo tutti prigionieri, ora siamo, ora liberi, ci apprestiamo. Leva A, P, P, R, O, S, cosa resta? Resta, ti amo. Immenso, nell'immenso, sei molto di più quello che penso, anche un dettaglio di ogni tuo sguardo mi fa ballare, mi dà scompiglio. Siamo nel tutto, parte del tutto, siamo assoluti, di pancia, di petto, tutto è qui detto in queste parole, tutto è già scritto nel tuo grande cuore. Immenso, nell'immenso, sei molto di più di quello che penso. Anche un dettaglio di ogni tuo sguardo mi fa ballare, mi dà scompiglio. Siamo nel tutto, parte del tutto, siamo assoluti, di pancia, di petto, tutto è qui detto in queste parole,